Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che tante persone potenti non vogliono la pace, perché vivono dalle guerre, l'industria delle armi. E questo è grave. I potenti guadagnano la vita, alcuni potenti, con la fabbrica delle armi. È già amarissima verità che si perde nella notte dei tempi. Queste, care ascoltatrici, cari ascoltatori, una verità che il Papa ha voluto comunicare anche davanti ai bambini oggi che sono andati a trovare in Vaticano, i bambini della Fondazione Fabbrica della Pace. Ma avremo molte altre cose da raccontare questa sera. Vi ricordo che è la puntata, quella di lunedì, in versione ridotta, quindi non perdetevi neanche un istante di Effetto Notte questa sera, perché poi sapete che c'è dalle 21.45 la rubrica dedicata agli autotrasportatori. Argomenti principali sono i dati questa sera sull'occupazione, per capire se queste incongruenze tra i dati Istat e i dati INPS stasera, che parlano di un boom di contratti a tempo indeterminato, insomma, come si conciliano. Ne parleremo tra poco. E poi ci occuperemo anche invece di altri dati, quelli che derivano dalle elezioni comunali che sono state in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, con una Forza Italia che si vede particolarmente in difficoltà, la Lega che cresce un po', il Movimento anche 5 Stelle, il PD che tiene, ma soprattutto ha vinto l'astensione. E poi parleremo anche dell'emergenza immigrazione. Oggi c'era Federica Mogherini all'ONU e ne ha parlato, è intervenuto, ha detto la sua anche questa sera a Mattarella. E parleremo anche della Libia, perché è lì la vera bomba esplosiva. Ma intanto cominciamo con il riassunto della giornata. Emergenza immigrazione, Federica Mogherini ne ha parlato oggi all'ONU. Si tratta di un problema umanitario ma anche di insicurezza, ha detto, sottolineando che bisogna agire subito. E Mattarella ha commentato: attendiamo una risoluzione dall'ONU sulla Libia. Le elezioni in Trentino Alto Adige e in Val d'Aosta, tiene il PD, cresce la Lega, debacle di Forza Italia, alto l'astensionismo. Il debito ellenico greco al centro dell'Eurogruppo di Bruxelles, il ministro Varoufakis annuncia accordo vicino. Occupazione, secondo i dati INPS, boom dei contratti a tempo indeterminato, più 24% in 3 mesi. Renzi commenta: la macchina è ripartita, ma per la CGIL è solo un regalo alle imprese. Banda ultralarga, spunta l'Enel, ma il Presidente del Consiglio twitta: è un obiettivo strategico, ma il governo non fa piani industriali. La pillola dei 5 giorni dopo, ora è in farmacia senza bisogno di ricetta. Ciclismo al Giro d'Italia, Matthews trionfa in rosa, paura per Pozzovivo, caduto a 40 km dal traguardo. Quindi dall'emergenza immigrazione, che oggi, vi dicevo, è stata al centro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove ha parlato l'alta rappresentante della politica estera europea, Federica Mogherini. La priorità è prevenire ulteriori morti nel Mediterraneo. Con queste parole l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha aperto la discussione sul tema dei profughi durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'Unione Europea vuole intervenire, ma non da sola, deve essere uno sforzo comune e vuole lavorare con l'ONU. La rappresentante dell'Unione Europea ha detto che il mandato dell'operazione per fermare il traffico illegale di migranti verso l'Europa è in via di elaborazione a Bruxelles e verrà sottoposto al Consiglio europeo del 18 maggio. Non possiamo e non vogliamo agire però contro nessuno, ma in pace con tutti, ha sottolineato. Tuttavia, l'ambasciatore all'ONU della Libia, Ibrahim Dabbashi, ha protestato: il governo libico non è stato consultato. Intanto, mentre a livello ONU si cerca una cornice legale per intervenire sui mercanti di uomini, a livello europeo si discute delle quote di migranti da ripartire fra i diversi paesi. E questo è il punto più controverso dell'agenda europea per le migrazioni, che sarà discussa dai commissari mercoledì. Una delle ipotesi sul tavolo è quella che i paesi europei accettino una distribuzione diversa dei migranti, a patto che l'Italia si impegni a creare centri di smistamento sul suo territorio con un controllo esterno. Il sottosegretario all'interno Domenico Manzione: dipende tutto dalle risorse che l'Europa ha intenzione di mettere in campo per poter realizzare quello che intende realizzare. Valentina Furlanetto, Radio 24. Sole 24 Ore. E sul tema Libia e immigrazione è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto che sulla Libia attendiamo una risoluzione dell'ONU. Intanto Peter Sutherland, rappresentante speciale per la migrazione internazionale e lo sviluppo del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, ha detto l'Italia continua a salvare vite nel Mediterraneo e ha sottolineato lo sforzo della Marina Militare Italiana per far fronte alla crisi sempre nel Mediterraneo, parlando dell'impegno sia in Mare Nostrum che in Triton. Poi il rappresentante speciale ha avvertito: se non vengono presi dei provvedimenti nell'immediato, entro il prossimo autunno 20.000 esseri umani potrebbero morire nel Mediterraneo. A questo proposito vi chiedo, naturalmente ci sono sempre i vostri due canali di intervento qui a Effetto Notte, che sono il numero per i messaggi, gli sms, che è il 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, per intervenire o sul problema dell'immigrazione o anche stasera sui dati delle comunali, che sono una specie di antipasto, come ha detto Salvini, per le regionali che si tengono il 31 maggio. Passiamo alla Grecia. L'Eurogruppo, il gruppo dei ministri dell'economia e delle finanze, oggi a Bruxelles ha discusso del negoziato sul debito della Grecia e in serata è arrivata una dichiarazione piuttosto positiva del ministro greco Varoufakis. Ha detto che l'accordo è vicino, c'è una convergenza con l'Unione Europea. Sergio Nava, è così? Sì, ciao Berta. Beh, allora diciamo che qualcosa si è mosso, insomma le acque si sono mosse finalmente. Ricordiamo tutti come solo a fine aprile a Riga all'Eurogruppo informale erano volati veramente gli stracci. È stato un Eurogruppo infernale, forse, effettivamente, come un gioco di parole potremmo dire. Qui invece questo Eurogruppo, ricordiamo anche nel frattempo Varoufakis è stato un po' messo da parte, cioè è cambiato il team negoziale da parte della Grecia e tutti i commenti sono effettivamente molto positivi. Sia il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem sia il commissario europeo all'economia di Moscovici hanno tutti quanti detto che non c'è ancora un'intesa, precisiamolo, non c'è ancora un'intesa, e finché non c'è un'intesa complessiva non verranno sbloccati i prestiti alla Grecia rimanenti, però ci si sta avvicinando. E più in generale Moscovici ha identificato in mercato del lavoro e pensioni, cioè riforma delle pensioni e riforma del mercato del lavoro, come i punti ancora su cui non si riesce a trovare un'intesa, però ci si sta avvicinando. C'è stata già una replica dello stesso Varoufakis, che ha detto: beh, la riforma delle pensioni non la si fa tagliando le pensioni, tagliare le pensioni in sé non è una riforma, quindi questo già dà un po' la misura che non è del tutto c'è ancora qualcosa da fare. Però attenzione, ricordiamo, domani scade un importante prestito che va rimborsato da parte della Grecia al Fondo Monetario Internazionale, si tratta di 756 milioni di euro, e Atene ha già detto che non ci sono problemi, li ripagherà. Però lo stesso Varoufakis in conferenza stampa ha detto: il problema della liquidità adesso da noi ad Atene è un problema molto urgente, bisogna trovare un'intesa in due settimane. Grazie Sergio Nava. E questo accordo man mano, insomma, sembra più vicino, vediamo quando finalmente si raggiunge. Siamo sulla politica italiana a questo punto, animata dall'esito delle amministrative in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, viste come anticipazioni del voto nazionale che è previsto per il 31 maggio. E per Salvini ci sono arrivate nuove contestazioni, stavolta a Foggia. Dopo Lecce e Bari, contestazioni per il leader della Lega, Matteo Salvini, a Foggia, dove le proteste di un centinaio di persone hanno costretto le forze dell'ordine a intervenire. La manifestazione per le regionali, nelle quali la Lega sosterrà la candidata di Forza Italia, Adriana Poli Bortone, era iniziata in modo pacifico, dagli antagonisti solo striscioni e cori di scherno. Ma poco dopo l'ingresso di Salvini all'hotel Cicolella, per incontrare giornalisti e simpatizzanti, all'esterno sono iniziati tumulti, con lancio di uova, pomodori, banane e fumogeni contro l'ingresso dell'edificio e contro le forze dell'ordine. I poliziotti, per placare le proteste, hanno attuato una breve carica di contenimento e nel caos una ragazza è rimasta lievemente ferita, ma all'arrivo dei soccorsi non si è fatta trovare. In queste 24 ore, ha commentato Salvini, ho incontrato alcune persone per bene e poi c'erano i soliti teppisti che urlavano e cercavano di aggredire. Forse, ha aggiunto, a Renzi e ad Alfano sta bene così. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto resta il problema delle pensioni. L'Europa attende di capire come il nostro paese intenda sciogliere questo nodo. Il Consiglio dei Ministri potrebbe varare già nella riunione di venerdì il decreto sulla rivalutazione delle pensioni, un passaggio atteso dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco deciso dal governo Monti, in attesa di valutare l'impatto dell'intervento dell'esecutivo sui nostri conti pubblici. La Commissione europea resta in pressing sull'Italia, ma proprio da Bruxelles, a margine dell'Eurogruppo, arrivano le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Padoan. Si trova una soluzione che sarà in armonia con i dettami della sentenza della Corte e che rispetterà i parametri che stanno già nel DEF. Su questo informerò, come sempre faccio, i commissari preposti alla sorveglianza dei paesi, quindi conto di parlare brevemente sia con Moscovici che con Dombrovskis. La restituzione ai pensionati della mancata perequazione dei loro assegni, ha spiegato Padoan, sarà selettiva e parziale e partirà dalle pensioni più basse. Lavoriamo per una soluzione equa e sostenibile, aggiunge il ministro del Lavoro Poletti, secondo il quale la decisione finale sarà il frutto di una valutazione collegiale da parte del Consiglio dei Ministri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi questa mattina si è tenuto l'incontro annuale della Consob, cioè l'organo di controllo della borsa, con il mercato finanziario, per il suo discorso, il quinto da quando il presidente Giuseppe Vecas ha scelto proprio come sede l'Expo di Milano. Per quanto riguarda il lavoro, secondo i dati INPS c'è stato, vi dicevo, negli ultimi tre mesi un boom di assunzioni, però di questo parleremo tra poco, per capire appunto perché arrivano prima dati di un certo tipo e poi dati in contrasto. All'estero Barack Obama ha mentito sull'uccisione di Osama Bin Laden. Lo sostiene Seymour Hersh, che è il giornalista premio Pulitzer, celebre per i suoi scoop nei confronti della Casa Bianca dell'esercito americano. Secondo Hersh, Bin Laden non aveva scelto il compound in cui fu ucciso per nascondersi, ma vi si trovava prigioniero dei servizi pakistani. Gli Stati Uniti lo individuarono grazie a una soffiata da parte di una fonte pakistana pagata da Washington 25 milioni di dollari. Di nuovo in Italia con la cronaca a proposito della tassista violentata a Roma. Dopo il Comune di Roma, anche l'associazione Telefono Rosa ha deciso di costituirsi parte civile nel processo nei confronti di Simone Borgese, l'uomo che ha confessato lo stupro della tassista di 43 anni. E poi l'ennesimo femminicidio. Un uomo, Marco Rossi, a Ravenna, ha ucciso la compagna Paola Fabri sparandole alla testa e poi si è suicidato. Lei era la parrucchiera del paese, lui lavorava in un salone a poche decine di metri da casa, lui la aiutava da qualche tempo. I due, che stavano insieme da una ventina d'anni e non avevano figli, sono descritti dai vicini come una coppia senza particolari problemi e senza litigi evidenti, ed è finita nel solito modo, tanto per tenere alta la percentuale ogni settimana. Poi c'è questa novità sulla pillola dei 5 giorni dopo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco, ha dato la possibilità di ottenere direttamente in farmacia la pillola per la contraccezione d'emergenza, che si chiama L1, la nuova pillola dei 5 giorni dopo, senza prescrizione medica per le donne in età maggiore di 18 anni. Siamo al cinema con le candidature al Davide di Donatello, l'Oscar praticamente del cinema nostrano. Appuntamento al 12 giugno per ricevere la statuetta che molti definiscono l'Oscar italiano. Ai David di Donatello e Anime Nere di Francesco Munzi a fare incetta di candidature, 16, tra cui quella di miglior film e miglior regista. Io che cose loro non c'entro. Ah, voi non sapete mai niente. Siete un primo dei frati e non sapete niente. Protagonista, la dura realtà dell'entroterra calabrese raccontata nel suo dialetto spesso inaccessibile. Le nomination arrivano dopo un passaggio a vuoto al Festival di Venezia, ma il grande successo negli Stati Uniti. Sono strafelice soprattutto per la troupe e i collaboratori che hanno tenuto duro su un progetto molto difficile dal percorso anticonvenzionale, dice il regista. Per il giovane favoloso di Paolo Martone, il secondo posto con 14 candidature. Certo che siete assai pessimista. Ma che parole vuote? Pessimismo, ottimismo. Il Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano, aveva già conquistato 3 nastri d'argento. Mia madre di Nanni Moretti, appena uscito nelle sale, Gabriele Salvatores con Il ragazzo invisibile, chiudono il podio con un exequo. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere lo sport, a cominciare dal Giro d'Italia con la terza tappa che ha visto la vittoria della maglia rosa Matthews, il grande spavento per l'italiano Pozzovivo, che è caduto a 40 km dal traguardo. Si temeva il peggio, per fortuna non è in pericolo di vita. E per il calcio, da circa 20 minuti è iniziato il posticipo della 35esima giornata di Serie A, in campo Genoa-Torino, entrambi a caccia dei 3 punti per continuare a sognare un posto in Europa League. E con la poca 0-1 per Genoa 1 Torino 0, mi aggiorno in questo momento dalla regia, quindi c'è stato un gol e con la poca voce che ancora mi rimane leggo qualcuno dei vostri messaggi al 349-238-6666. Dice Filippo, 42 anni, da Milano, ci tiene anche a mettere l'età: il problema non è dove mettere i migranti ma non farli arrivare, bisogna fare come l'Australia, dice. Però oggi Mogherini ha detto che non intendono in nessun modo respingere i migranti, poi ne parliamo. E poi invece un altro ascoltatore dice: sì, ciao, la macchina è ripartita, forse come dice Renzi, forse dovrebbe Renzi andare a farsi qualche giro con gli agenti di commercio o restare a fantasticare a Fantasilandia. Quindi i vostri commenti o appunto su uno degli argomenti di questa sera, che può essere l'immigrazione, oppure i risultati delle comunali, o anche come scriveva l'ascoltatore, i dati sull'occupazione. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, vi dicevo, quindi per i vostri messaggi sempre, anche se la versione questa del lunedì più corta, quindi ci lasciamo alle 21.45 per dare spazio alla rubrica dedicata agli autotrasportatori, quindi concentrate intensamente in questo periodo fino a quell'ora i vostri messaggi o al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte commentando le notizie di oggi. Ve le riassumo brevemente le più importanti. Dei contratti a tempo indeterminato, questo secondo i dati dell'INPS, un più 24% nei primi tre mesi. Renzi dice la macchina è ripartita, la CGIL dice no, è solo un regalo alle imprese migranti. Mogherini all'ONU commenta: bisogna agire subito, è un dovere morale, intanto ci sono 20.000, secondo le previsioni, 20.000 migranti a rischio nei prossimi mesi, l'Unione Europea intanto tratta sulle quote. Comunali, la Lega vola, Forza Italia crolla al 4%, il PD tiene, Salvini contestato a Foggia, fumogeni e uova, polizia alla carica. E poi in Libia ci sono state bombe di Tobruk sulla nave mercantile turca, è stato ucciso un marinaio, Ankara protesta, i militari libici dicono violava l'embargo sulle acque, insomma, vicino alla Libia. Poi per la banda ultralarga spunta l'Enel, potrebbe essere dato all'Enel, ma Renzi dice il governo non fa piani industriali, anche se è un argomento strategico. Avete sentito poi il Papa che ha detto i potenti non vogliono la pace perché vivono di guerre, questo l'ha detto oggi in Vaticano davanti ai bambini della Fondazione Fabbrica della Pace. E poi la paura al Giro d'Italia con Pozzo Vivo che è caduto in discesa, una brutta caduta, 40 km dal finale, però non è in pericolo. Ora concentriamoci sui dati INPS sul lavoro. Allora, vi dicevo che secondo i dati trimestrali, quindi del primo trimestre 2015, c'è un boom di contratti, più 203.000 a tempo indeterminato grazie al taglio dei contributi, con una crescita del 24% sul 2014, quindi con gli sgravi fiscali, la decontribuzione fiscale contenuta nella legge di stabilità. Però bisogna chiedersi come mai, insomma, ogni tanto arrivano dati negativi e poi arrivano dati positivi. In ogni caso Renzi ha detto la strada è lunga, ma l'Italia è ripartita. La CGIL ha detto non ci troviamo di fronte a una vera svolta, ma un grande regalo alle imprese e a meno diritti per i lavoratori. Mentre Furlan, la segretaria generale della CISL, ha detto sono dati positivi, bisogna valorizzarli. Che ne penserà il nostro Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore? Chicco. Ciao, buonasera. Buonasera. Ma sai, effettivamente, insomma, mi sembrano. Allora, innanzitutto, diciamo, in questo, sempre girandola di numeri, di cifre che insomma di settimana in settimana arrivano, specie sul lavoro, direi che questi dell'INPS hanno, diffusi oggi, hanno almeno, diciamo, il pregio di essere molto simili a quelli che abbiamo visto pochi giorni fa, poche settimane fa, del Ministero del Lavoro. E quindi almeno lì abbiamo, come dire, una parola di verità. È un dato, insomma, sicuramente positivo, è un dato che ci dice che nei primi tre mesi del 2015 c'è stato un saldo positivo di unità di lavoro pari a circa 320.000 posti, quindi 1.330.000 contratti di lavoro stipulati e poco più di 1.000.000 cessati, quindi il saldo positivo è importante, è in miglioramento rispetto all'anno scorso. E l'altro dato significativo è esattamente quello che segnalavi tu, cioè si si nota in questa fase uno spostamento verso i contratti a tempo indeterminato. Che abbiamo detto l'altra volta, io ho detto polemicamente, a tempo indeterminato finché dura, no? Visto che non c'è più l'articolo 18. Esatto, quelli lì proprio. Perché le aziende si stanno spostando verso questa tipologia di contratto? Anche questo l'hai giustamente ricordato tu, perché dall'inizio dell'anno le assunzioni a tempo contratto a tempo indeterminato garantiscono un elevato risparmio fiscale e contributivo per le imprese, sia perché le imprese di fatto non pagano contributi su queste assunzioni, cioè un benefit, un bonus che vale 8.060 euro all'anno per 3 anni per ogni lavoratore assunto, quindi è veramente tanto, e in più tutti i lavoratori che vengono assunti con questa tipologia di contratti vengono anche esclusi dalla base di calcolo per l'IRAP delle imprese, per cui le imprese hanno un doppio vantaggio e evidentemente, insomma, come è giusto che sia, ma d'altra parte questa era anche un po' la finalità della norma, stanno privilegiando queste tipologie di assunzione rispetto ai vecchi contratti a termine. Ricordo comunque che i contratti a termine continuano a rappresentare, diciamo, la stragrande maggioranza dei nuovi contratti di lavoro, no? Siamo, adesso mi sembra, 800.000 contro 400.000, quindi diciamo non si è ancora verificato, diciamo, un'inversione completa di tendenza, però insomma in questa fase sono molti le aziende che e un altro fenomeno che si osserva, ma anche questo insomma è abbastanza comprensibile, di molte aziende che stanno trasformando i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, perché ovviamente in questo modo riescono a beneficiare del bonus che abbiamo ricordato prima e anche dello sconto sull'IRAP. Direi, Salvatore Chicco Padula, diamoci appuntamento ai prossimi dati, vediamo se sono in controtendenza o sono coerenti con questi. Grazie intanto, Chicco. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Ora invece spazio alle elezioni comunali che sono state in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige ieri. Bassa affluenza, questo è un dato che è proprio saltato subito all'occhio. Tracollo per Forza Italia a Trento e Bolzano, avanzata della Lega che ha raddoppiato i voti rispetto alle amministrative precedenti. Il PD che vince ma è in leggero calo, a Trento vince con l'elezione del PD, a Bolzano invece si andrà al ballottaggio. Poi il Movimento 5 Stelle che si ritiene soddisfatto, c'è scritto sul blog di Grillo, abbiamo raddoppiato i consensi, c'è ancora molto da fare ma la strada è quella giusta. E poi altro dato importante è che il Sud Tiroler Volkspartei, che è il partito che tradizionalmente raccoglie in Alto Adige l'elettorato di lingua tedesca, ha ceduto diversi comuni a favore delle liste civiche locali formate proprio in alternativa al partito della Stella Alpina. Però diciamo quello che ha avuto i risultati maggiormente deludenti, diciamo così, è stato sicuramente Forza Italia. Ne parliamo con Salvatore Merlo, che saluto. Ciao Salvatore. Ciao, eccomi. Giornalista e commentatore politico del Foglio. Ci si aspettava un po', anche nonostante sia sceso in campo anche Berlusconi, no, per sostenere i candidati, soprattutto in vista delle regionali del 31 maggio, e poi ci sono stati il Fitto che ha detto il partito ormai è nella distruzione più totale, insiste, sappiamo che il dissidente numero uno insiste da tempo sul fatto che bisogna un po' svecchiare la classe dirigente di Forza Italia, così anche Toti oggi però ha fatto un accenno a questa cosa, il risultato è deludente sulla dirigenza, forse bisogna fare una riflessione. È la classe politica locale. Però sì, è vero. È vero che si è concentrato più sulle colpe, come anche la Biancofiore, sulle colpe dei politici locali, tanto è vero che ha chiesto il commissariamento, no? Se non sbaglio. Sì, ha chiesto il commissariamento. Guarda, rischia di essere questo un assaggio delle regionali a cui assisteremo a breve, perché si vota il 31 maggio e si vota e sarà un test importante. Questo del Trentino non lo fosse, però sono poche centinaia di migliaia di elettori. Il deputato di Forza Italia è comunque terribile, però alle regionali del 31 maggio si vota in Campania, che fa 5 milioni di elettori, si vota in Veneto, quello è sarà il vero test. Questo è, come dicevo, un assaggio. Ora, se questo è l'andazzo, significa che la Lega supera Forza Italia, però questo già lo sapevamo, l'avevamo visto dai sondaggi, un po' si avverte, no? Vogliamo sentirla allora, scusami Salvatore Merlo, la soddisfazione di Salvini, che parla di un bel antipasto per il 31 maggio, sentiamo. A Trento e a Bolzano abbiamo triplicato i voti rispetto alle elezioni di 2 anni fa, abbiamo raggiunto il massimo storico della Lega di sempre, siamo secondo partito a Trento, terzo partito a Bolzano, se tanto mi dà tanto è un bel antipasto per il 31 maggio. Insomma Salvatore, un bello smacco per Forza Italia sentirsi superati dalla Lega? Sì, se lo aspettavano. Ora Forza Italia non ha dato un grande spettacolo di sé in questi mesi, è un partito agitato da un profondissimo tramestio, ci sono rivalità, dissidi, coltelli che vengono infilati nelle spalle del primo che si volta. Un gruppo emergente intorno a Silvio Berlusconi, ma non particolarmente carismatico, fa parte anche Giovanni Toti con Maria Rosaria Rossi e Deborah Bergamini e forse pare, dicono, anche Francesca Pascale, e poi la vecchia guardia di Forza Italia, quel che rimane di Alleanza Nazionale, che si sente non amata e tradita. Tutti i guai di Forza Italia discendono poi dalla sconfitta giudiziaria di Silvio Berlusconi. Cioè, Silvio Berlusconi ha perso la guerra ventennale con i magistrati, è stato condannato in via definitiva, non è eleggibile, ha fatto anche i domiciliari e i lavori socialmente utili ed è finito a lungo per molti mesi in un cono d'ombra dal quale è appena uscito, e questi sono i risultati. Adesso lui parla di un rilancio, dice che parla di un nuovo soggetto politico, no? Sul modello del Partito Repubblicano americano. Sì, lui ci ha abituato in questi 20 anni a anche vincenti escogitazioni di marketing elettorale, no? Inventò Forza Italia nel 94 piazzandola sugli scaffali del supermercato elettorale come una scatoletta di pomodoro che andava messa appunto al supermercato, e ha avuto un successo straordinario, fu il primo a trattare un partito come un marchio, come un brand. Noi eravamo abituati a conoscere, non so, la PSI, la DC, PLI, PRI, così erano chiamati. Lui arrivò con una cosa che si chiamava Forza Italia, sembrava un deodorante, e ha vinto, vinse. E dopodiché fece il predellino, PDL, il Popolo della Libertà, anche lì una trovata emersa da un discorso fatto sul predellino di un'automobile a Piazza San Babila, uno straordinario successo, vinse anche lì le elezioni. Poi c'è stata il cono d'ombra giudiziario, questo ritorno a Forza Italia, ma la Forza Italia, come tutti i revival hanno poi scarso successo, sempre, dici qualcosa di sempre un'idea di stantio, di già visto. Di crepuscolare forse. Senti, Salvatore Merlo, ma tu sei d'accordo sul fatto che il Südtirol Volkspartei in Alto Adige abbia avuto a sua volta dei risultati esigui per i tagli alla spesa sanitaria? Può essere solo questo il motivo o anche lì ormai è una cosa superata? Sai, lì ci sono delle dinamiche, delle meccaniche che sono molto regionalistiche, che io confesso di conoscere poco. Tuttavia credo che sia stato punito il governo regionale in Trentino. E il governo regionale lì, la provincia di Bolzano, è un feudo del Südtiroler. Quindi gli elettori hanno punito il presidente della regione Durvalder. Io direi a questo punto di chiudere con Salvatore Merlo, con il PD, che comunque insomma ha vinto in ogni caso, anche se con un lieve calo. Sentiamo allora Deborah Serracchiani, vice segretaria del partito. Il Partito Democratico è un partito in buona salute. Portiamo a casa un'affermazione netta a Trento e ad Aosta e dobbiamo riconfermare il buon governo di Bolzano. Dall'altra parte, Salvini è un po' troppo euforico, visto che si è limitato a vampirizzare una irriconoscibile Forza Italia di fronte ad un'opposizione fin dai territori estremista e molto frammentata. Quindi in buona salute alla fine il PD comunque, no? Ha perso qualche punto rispetto alle europee, comunque probabilmente si tratta anche di un effetto dell'alto astensionismo. Il PD sembra stare benissimo, alle europee aveva fatto un botto con quel 41%, forse irripetibile, e un po' Renzi comunque, che gode di altissimi sondaggi, un po' inevitabilmente comincerà sempre di più a soffrire anche degli effetti di chi sta al governo, perché poi per il governo hai i suoi vantaggi ma anche degli svantaggi, cioè se le cose poi ce la si prende sempre con chi sta al governo ed è più facile presentare. Piove governo ladro, per forza. Stando all'opposizione è più facile fare la campagna elettorale. Salvatore Merlo, allora adesso staremo a vedere se questo appunto è uno specchio di quello che succederà il 31 maggio. Abbiamo ancora qualche giorno per pensarci. Grazie Salvatore Merlo. Grazie a te, grazie a voi. Ciao, buona continuazione. Ora ci prendiamo un po' di ricreazione, vedo dei messaggi vari, siamo i soliti fenomeni per sprecare le occasioni, gli immigrati sono gli unici che possono far ripartire il nostro mercato interno perché a differenza di noi italiani hanno fame, quindi lavorano, producono e spendono, dice Sid da Viareggio, l'America è diventata l'America grazie all'immigrazione dall'Europa. Questo al 349-238-6666 oppure potete continuare anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi, senza una gran voce questa sera, ma comunque restiamo insieme ancora circa un quarto d'ora, perché lo sapete che lunedì è la versione più corta di Effetto Notte, e vedo una notizia subito che insomma rincuora a proposito del Giro d'Italia. Pozzo Vivo dice: non ricordo la caduta ma sto bene. Insomma, meno male che sta bene, ma diciamo questo vuoto di memoria non è il massimo, però sapete quando si prende magari una botta forte alla testa. Pozzo Vivo, che oggi ha fatto spaventare durante il Giro perché è caduto a 40 km, una brutta caduta fatta a 40 km dal traguardo, rassicura tutti: non ricordo cosa è successo e perché sono caduto, mi ricordo che la discesa era impegnativa, forse mi è scivolata una ruota. Vabbè, quindi abbiamo buone notizie, diciamo così, da questo punto di vista. Le altre notizie ve le ricordo, le principali della giornata sono queste. L'emergenza immigrazione, con Federica Mogherini che ha parlato oggi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, si tratta di un problema umanitario, ha detto, ma anche di sicurezza, e poi ha sottolineato l'esigenza del fatto di dover agire subito. Mattarella a sua volta ha commentato: attendiamo una risoluzione dell'ONU sulla Libia. Le elezioni in Trentino Alto Adige e in Val d'Aosta, ne abbiamo appena parlato, tiene il PD, cresce la Lega, debacle di Forza Italia e alto l'astensionismo. Per quanto riguarda la Grecia, il debito ellenico greco al centro oggi dell'Eurogruppo di Bruxelles, il ministro greco Varoufakis ha annunciato l'accordo è vicino. Per l'occupazione, secondo i dati INPS, boom di contratti a tempo indeterminato, più 24% in tre mesi, Renzi dice l'Italia riparte. Poi per il ciclismo la notizia che vi davo prima, mentre Matthews trionfa in rosa. E il tema adesso invece della Libia e dell'emergenza sbarchi nel Mediterraneo. Oggi avete sentito, vi dicevo, dell'alta rappresentante della diplomazia europea, Federica Mogherini, che ha parlato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha detto: una situazione eccezionale richiede misure eccezionali, bisogna intervenire subito, migranti e profughi non saranno mandati indietro, ha detto, voglio essere chiara su questo. Abbiamo sentito anche l'intervento di Mattarella sull'immigrazione, anzi risentiamolo. Gli obiettivi sono salvare vite umane, impedire che avvengano tragedie come quelle di qualche settimana dietro, sconfiggere i trafficanti di esseri umani, aiutare la Libia a trovare una condizione di tranquillità per evitare che si impianti il terrorismo. Questi sono gli obiettivi. E aiutare i paesi da cui nascono le ondate migratorie a migliorare le condizioni proprie. Questi sono gli obiettivi. Gli strumenti sono nelle mani dei governi. E sappiamo che la Libia è una polveriera da questo punto di vista, anche Mogherini ha detto bisogna distruggere il business dei barconi, che soprattutto lì insomma si alimenta. Ne parliamo con Arturo Varvelli, che saluto. Buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Grande esperto di Libia, responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Varvelli, Mattarella oggi ha detto ci aspettiamo una risoluzione dall'ONU sulla Libia. Sì, l'Italia sta lavorando a questa risoluzione, naturalmente non fa parte del Consiglio di Sicurezza perché non è un membro permanente e non è neppure un membro in questo momento, quindi si sta affidando ad altri partner europei con i quali sta lavorando di concerto, in particolare la Spagna, in questo caso che mi pare si possa fare portatore dell'istanza dell'Italia, e uno spagnolo, Bernardino León, che diciamo sta tenendo la trattativa di riconciliazione o un tentativo di questo tipo con i negoziati che si stanno conducendo in questo momento in Marocco e che però non sono ancora arrivati a un buon punto, direi, e quindi rimangono comunque anche, nessuno ha visto per adesso diciamo questa bozza, quindi dobbiamo affidarci a quanto trapela, perché sarebbe interessante naturalmente capirne alcuni particolari sul metodo d'azione, su che cosa fa esplicitamente riferimento al capitolo 7 delle Nazioni Unite, cioè che cos'è che consente di utilizzare misure diciamo di uso di guerra di fatto, misure militari in qualche maniera, e come queste vengono inquadrate. Per adesso ancora non vi è chiarezza su questo punto. Pervelli, in questo minuto e mezzo che ci rimane, e qual è la situazione di adesso della Libia con questi due governi, il caos, non si capisce granché visto da qui? No, direi che il caos perdura, continua a perdurare, nonostante le dichiarazioni di Bernardino León che dicevano l'80% raggiunto, a fonti diplomatiche che facevano trapelare che ci fosse un accordo. In realtà settimana scorsa l'accordo tra i due governi, il governo di Tobruk, che è quello riconosciuto come legittimo ma che in realtà ha scarsa legittimità perché controlla pochissimo territorio, e quello di Tripoli, governo che noi definiamo islamista ma che naturalmente non è composto solamente da forze islamiche, ancora non trovano un accordo, perché questo accordo sarebbe basato proprio sulla sulla primato del Parlamento di Tobruk, che verrebbe riconosciuto come legittimo. Poi ci si attacca a formule complesse dove ci sarebbe una sorta di triumvirato con un primo ministro, con altri due vice primi ministri, quindi si sta trattando su ogni singolo punto. Aspettiamo quindi questa risoluzione dell'ONU e vediamo se si riesce a fare almeno più chiarezza. Grazie intanto Arturo Varvelli. Grazie a voi. Grazie. Noi ci aggiorniamo alle 22.